Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Non andare a votare. Soprattutto non è bello farlo così a cuor leggero, addirittura farsene un vanto. C'è dentro il disagio di non appartenere più a niente, di essere diventati totalmente impotenti. C'è dentro il dolore di essere diventati così poveri di ideali, senza più uno slancio, un sogno, una proposta, una fede. È come una specie di resa. Ma al di là di chi vota e di chi non vota, al di là dell'intervento, al di là del fare o non fare politica, l'importante sarebbe continuare a essere politici. Perché in ogni parola, in ogni gesto, in qualsiasi azione normale, in qualsiasi momento della nostra vita, ognuno di noi ha la possibilità di esprimere il suo pensiero di uomo e soprattutto di uomo che vuol vivere con gli uomini. E questo non è un diritto, è un dovere. Dopo le parole illuminanti di Gaber, benvenuti in studio alle Lucciole nelle Tenebre. Siamo Stefano e Benedetta, ciao a tutti. E oggi ci occuperemo di diritto di voto e astensionismo. Ma parliamo prima di tutto, che cos'è il diritto di voto e che storia un po' ha il diritto di voto in Italia? Sì, innanzitutto il diritto di voto è sancito all'articolo 48 della Costituzione italiana e il voto ha determinate caratteristiche. Innanzitutto è personale, uguale, libero e segreto, e il suo esercizio è un dovere civico. Iniziamo a spiegare le caratteristiche brevemente. Allora, personale, nel senso che si ritiene che il voto per delega non sia legittimo. Uguale, nel senso che non sarebbe legittimo il voto plurimo o multiplo. Come no? No, il voto è uno e ha lo stesso peso, proprio ai sensi anche del principio di uguaglianza. Quindi il mio voto vale quanto il tuo, magari non il mio perché sono più simpatica, più intelligente sicuramente, sì, certo. Però andiamo avanti, per favore. Libero, nel senso che chiaramente uno è libero di votare quello che vuole e si spera, anche se spesso purtroppo non è così, che uno abbia la libertà di farlo. E segreto, proprio per tutelare maggiormente la libertà di voto e l'esercizio di questo diritto. Abbiamo anche detto appunto che l'esercizio è un dovere civico. È una caratteristica che ha subito delle modifiche. Innanzitutto all'inizio dell'epoca costituzionale si disputava fra chi lo concepiva il voto come un diritto e chi come una funzione e quindi anche come un dovere, il cui mancato adempimento avrebbe addirittura giustificato delle sanzioni. Soprattutto dopo il riconoscimento che avevano avuto le donne 46 di voto, mentre già gli uomini votavano nel 1919, e venne poi introdotta la formula del dovere civico nel 93, quando fu soppresso il riferimento all'obbligo, qualificando il voto come un diritto di tutti i cittadini il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica, quindi un dovere civico ma anche un diritto. E fu il compromesso tra chi la vedeva come un diritto e chi come una funzione, però non un obbligo e quindi non sanzionabile. Ma io ho bisogno di un esperto, perché se no non ci capisco nulla. Il tuo politichese, stai dicendo che io non sono un esperto, non ti permettere. Abbiamo bisogno di qualcun altro. Licenziamo il tecnico, per favore, licenziamo questo conduttore. No, l'esperto, l'esperto oltre a me, no, abbiamo avuto l'onore di, le nostre inviate, hanno Ilaria e Graziano, sono andate a intervistare il professore Andrea Morrone di Costituzionale e di Costituzionale Avanzato qui a Giurisprudenza di Bologna, e gli abbiamo fatto alcune domande. Astensionismo ai massimi storici è legge elettorale che non assicura governabilità ai partiti, rappresentatività democratica tutt'altro che rispettata. Che possibilità ha un governo che vince con questi presupposti? L'astensionismo in Italia è in crescita negli ultimi anni, ma è comunque il nostro paese, uno dei paesi nel quale si vota ancora molto. Quindi non abbiamo raggiunto i livelli degli Stati Uniti d'America, dove vota poco più della metà degli aventi diritto al voto, per elezioni ad esempio del Presidente degli Stati Uniti. Da noi in Italia votano più dei tre quarti degli aventi diritto, È vero che in Sicilia c'è stata una forte astensione nelle elezioni regionali, però io mi aspetto che alle prossime politiche non si dovrebbe scendere sotto il 70% dei votanti. Ma anche se arriviamo al 65%, certamente sarebbe un trend fortemente negativo, ma non particolarmente preoccupante. Non è preoccupante perché in una democrazia votano i cittadini politicamente attivi, cioè quelli che sono più sensibili alla cosa pubblica e che ritengono che la partecipazione attraverso il voto sia non soltanto un semplice diritto, ma sia un modo per poter contribuire alla determinazione della politica nazionale. Quindi sarebbe bello pensare che tutti gli italiani avessero questo senso, no, di cittadinanza, ma non è così statisticamente, non può essere così nel nostro paese. Detto questo, quindi, non mi preoccuperei tanto della legittimazione che avrà il prossimo governo, perché la vera questione che è in gioco nelle elezioni della prossima primavera non è quanti andranno al voto, ma che tipo di risultato uscirà dalle elezioni. E cioè, avremo noi una maggioranza di governo? Gli elettori saranno in grado, per il tipo di sistema elettorale con il quale voteremo, quello attuale, la legge Calderoli, o quello nuovo che si va discutendo? Avremo alla fine una coalizione in grado di avere i numeri per costituire una maggioranza e quindi per sostenere un governo? E questo è il punto. Su questo punto non incide il numero degli astenuti, incide sostanzialmente il criterio che ci permetterà di esprimere una maggioranza e un governo. La sensazione che ho io è che se appunto si resta in questa situazione di forte divisione politica, in cui nessun partito ha ancora chiaro qual è il tipo di alleanza, il tipo di programma che intende realizzare, sarà difficile pensare che si potrà avere una maggioranza e un governo. Dunque, il diritto di voto è un dovere civico e non un obbligo. Perché è importante andare a votare anche se non c'è più fiducia nei partiti? Perché e in che senso è meglio una scheda bianca all'astensione? Votare è uno strumento fondamentale di partecipazione democratica. Senza il diritto di voto, inteso come dovere civico, non si può ambire ad essere cittadini di una comunità politica. Detto questo, la scheda bianca è diversa dall'astensione dal voto, bisogna fare una netta distinzione. Votare significa partecipare, e che è il presupposto fondamentale, e quindi il diritto di partecipazione sta nel diritto di cittadinanza. Se un cittadino non comprende questo, non è un buon cittadino, e quindi forse ha diritto a non far parte di una comunità politica. Quando si vota, e quindi quando si partecipa avendo a disposizione tre possibilità: votare sì, votare no o astenersi nel voto, cioè mettere scheda bianca. Questo si può fare, ma non si viene meno al diritto dovere di voto, perché si partecipa comunque e si tiene conto delle astensioni nel voto. Diverso il discorso dell'astensione dal voto, o di colui che invita a non votare, cioè che invita ad astenersi dal voto. Questo è, secondo me, una contraddizione fortissima con il diritto di voto, come dovere civico, è in contraddizione con lo status di cittadino, perché se ti astieni dal voto, se non partecipi neanche, è evidente che non stai contribuendo minimamente alla formazione della cosa pubblica, alla determinazione della politica nazionale. Manifestare dare un segnale di protesta lo puoi fare votando scheda bianca. L'astensione dal voto è la totale atarassia, apatia rispetto alle cose politiche. Se la sovranità appartiene al popolo, perché le forme di elezione diretta assumono nella prassi una valenza secondaria? La sovranità appartiene al popolo, ma, come dice la Costituzione, la sovranità va esercitata nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione. La regola è che la sovranità popolare viene rappresentata, cioè si esprime attraverso dei rappresentanti, e in talune circostanze il popolo può pronunciarsi direttamente su questa o quella questione, ad esempio attraverso i referendum. Si tratta di uno strumento importante, quello della democrazia diretta, che si articola in diverse modalità. Una soltanto è quella del referendum abrogativo, ce ne sarebbero delle altre, delle inchieste popolari, ci sono i processi di democrazia partecipativa in cui su grandi issues vengono chiamati gli elettori a discutere per capire quali sono le opinioni. A Bologna si discuterà di un referendum consultivo sul finanziamento alle scuole private. Diciamo così che la regola è la democrazia rappresentativa. La democrazia diretta e le forme di democrazia diretta sono un'eccezione. Il valore di questa eccezione in un sistema complessivo dipende da come vengono considerati questi strumenti di partecipazione. Adesso vi chiediamo di scegliere una canzone per chiudere il programma, sempre se ne va. Hotel California degli Eagles, perché rappresenta bene la situazione in cui versa il nostro paese. Stiamo rischiando di fare come appunto l'Hotel California, in cui tutti vedono nell'altro un proprio nemico, e c'è il rischio che di fronte a questa situazione nessuno prenda sul serio l'ipotesi di trovare un terreno comune di incontro, di intesa per salvare il nostro paese. Yeah. Bentornati qui a Lucciole nelle tenebre. Grazie a Graziana Ilaria per la loro intervista e riprendiamo la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di diritto di voto e, come annunciato nel sommario, volevamo parlare anche di astensionismo. Stefano. Beh, introduciamo innanzitutto con un po' di dati relativi all'astensionismo in Sicilia nelle ultime elezioni regionali. Degli aventi diritti di voto sono andati a votare solamente il 47,42%, ovvero 2.203.835 votanti. È un dato estremamente indicativo sulla sfiducia nei confronti delle istituzioni e nei confronti dei partiti che si vanno a votare. Sì, io ho letto anche tanti articoli, no? Con dei titoli del tipo la mafia non ha votato, la mafia ringrazia, perché? Beh, perché la mafia ha un suo peso nella decisione di voto, però non è solo questo, c'è anche con la crisi, con tutti gli scandali che stanno investendo i partiti, c'è una grande sfiducia nei confronti delle istituzioni, nei confronti dei politici, perché pensiamo che tutti i politici siano corrotti, ma non è così. Quindi c'è anche una sfiducia del diritto stesso di voto, cioè anche nella propria voce, sapere di non poter contribuire a un cambiamento effettivo e valutato no? Cioè, di una certa importanza, ecco. Beh, sì. E Libera in tutto questo che ruolo può avere? Beh, Libera ha il fondamentale compito di per sé di unire delle reti di associazioni per formare una cittadinanza modello. E la cittadinanza modello e la cittadinanza attiva sta anche nel diritto di voto e nell'esprimere il proprio diritto di voto. Non siamo qui a dirti di votare il partito della lasagna o il partito della polenta valsugana, però siamo qua a dire che il voto è una cosa importante, appunto è un diritto dovere, e in quanto diritto dovere è molto importante andare a votare, perché si esprime la propria decisione nei confronti di... Esatto, come diceva anche prima il professor Morrone, è parte di uno stato cittadini, non ci si può sentire italiani, non ci si può sentire parte di una convivenza e di una società civile se non si esprime alla nostra voce. Anche perché chi non vota dà la maggioranza dei partiti che magari non hanno tanti voti di per sé, però dà la maggioranza a loro perché non va a votare. E quindi qui in Italia che cos'è la libertà? È la partecipazione. Libertà è partecipazione. Mi ricordi un po' Gaber. Mi ricordo un po' Gaber, sai. Perciò lanciamo adesso la canzone, appunto, La libertà di Giorgio Gaber. Vai. Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo e è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Libertà e partecipazione di Giorgio Gaber. Torniamo in studio, abbiamo veramente poco tempo per parlare della vittima di mafia. Abbiamo parlato di diritto di voto, però non è l'unico diritto che abbiamo. E abbiamo qui Flavia per raccontarci la storia di una persona che è morta per difendere un altro diritto, che è il diritto a retribuzione come la possibilità di avere una vita dignitosa, non soltanto per se stesso ma anche per gli altri. La vittima di oggi è Vincenzo Di Salvo, un operaio siciliano che nel 1958, in qualità di dirigente sindacale, si mise alla testa di uno sciopero di operai, di una ditta edile, che non ricevevano il loro salario da circa 6 mesi. Il sovrastante della ditta, un noto mafioso licatese, decise di parlare a quattro occhi con Di Salvo e che la mattina dopo venne ritrovato riverso in una pozza di sangue nei pressi del centro abitato. Dopo aver ricordato Vincenzo Di Salvo, vi salutiamo con una canzone un po' particolare, perché il cantante italiano, però suonano a Londra, il gruppo si chiama Vado in Messico e la canzone Spain. Ciao a tutti. Ciao ciao. In Spain those days.